in una maniera degna. Certo, caro, non ti preoccupare, lo sai che io ho quei... i nipoti vengono qua a casa, spesso e volentieri. Quindi, vedi tu? Allora, andiamo un pochettino. Ok, adesso... avvisiamo. Come sta andando la radio ora, bene? Sì, l'LMS200 va bene. Sta pompando bene, 110 adesso. E allora, vedi, già va bene. Sì, quello sì, però c'è una cosa strana, cioè in FM da 15, in banda laterale da 15, in AM nella 5. Adesso è tutto da fammelo controllare, perché non so se è una cosa normale, la verità, o comunque sia. Poi il resto funziona benissimo, trasmissione, ricezione, eccetera, eccetera. Adesso lo sto usando con Gilberto, figurati, F200, bubu. Che radio è quella? L'LMS200, Lafayette, quello che è San Antonio, il vicino di casa di Gavino, ce l'ho io, l'ho comprato io. Non lo ricordo, comunque, vabbè, non vorrei guardarla adesso. Ok, funziona bene, a voglia. Ti volevo dire, adesso mi viene in mente, in pratica, aspetta, si può anche regolare, naturalmente, mid LO, così sono a bassa potenza, così, aspetta, media e così alta. E vabbè, ma tanto non noto niente, perché... magari nell'altra radio sì, ma qua no, qua si fondo scala, quindi. Antone, ma microfono amplificato stai usando? No, sto usando il microfono normale. Ah, ok. Ebbene, non ce l'hai un microfono amplificato da provare? No, la verità non ce l'ho in questo momento. Perché la modulazione è bassa, vabbè, ce l'aveva anche lui, c'è tutto ricordi, abitavo a fianco a te. Ma io non l'ho mai sentito a questo qua, non so neanche chi sia, non so come è fatto, Antonè, ma di cosa mi serve abitendi? E a fianco a me, l'ho visto un'antenna che un giorno aveva un radiale, un giorno ne mancava un altro, una di era pigiata a dritto, una di a sinistra, io non lo conosco questo qua, Antonè, ma cioè tu, ma quando è che la giù mi hai conosciuto? Io ti sto dicendo che non esce male, però è un po' bassa, abbinagli un microfono amplificato e provala, capito? Non è secca, vai, riprendi. Ah, vabbè, quello già lo so anch'io. È sempre stato così questo apparecchio qui. Ci vuole il microfono amplificato. L'avevo provato con un microfono tipo Tannen più 3 e usciva benissimo, quindi figurati, la casa sua. Sto parlando del baracchino di Antonio Delta 1, tutto lì. Eia, ma io non lo conosco. Non lo conosco, non lo conosco e non lo conosco un'altra volta, vai Antonio, vai. Era un piacere di conoscerlo, però ci aggiungo io. E se non lo conosco, quando ho messo l'HF Licom in vendita, mi ha contattato questo qua. Adesso ti dico una cosa, mi ha contattato questa persona qua, non so se all'ascolto, se non è all'ascolto, se all'ascolto non mi interessa, e mi aveva proposto uno scambio con quel baracchino che mi hai dato, che c'hai tu adesso, è un alimentatore, ma secondo te, sono cose, cioè, ma sono pensieri che possono venire in testa o cosa può essere? Perché per me non è neanche un pensiero che possa venire in testa, eh. Ti, cosa ne dici tu? Lui, lascia perdere, lascia. Caspita. Quindi, non lo conosco. Antonio, mettili un microfono amplificato a quella radio e poi la provi. E li metti un amplificatore piccolino, anche un B131, una cosa. E vedi un po' come esce. Sempre se non esca avvitato. Vai, riprendi, Antonio. Guarda che sto pompando io, non so liscio, Guarda, qua da me sei, S7. Sto pompando, te lo sto dicendo. Stacca a vedere. Allora. Così. Sono 90 watt. Tonti tonti. In FM naturalmente. E gli approva a staccare. Adesso stacco un attimo. Allora. Ecco qua. Guarda un po'. Cioè, ma può essere qua da me da S7 arriva a S30. Cioè da 7 a 3 attaccato, oppure da 3 a 7. Allora, lui attaccato è S7. È staccato è S3. Non mi apre neanche lo squelch. Cazzo, voi da guadagno. Allora, scusa, sto scendo con 5 watt me. Ok, adesso attacca. Allora, attacco. Eccolo qua. Watt 90. Lo sai che ti comprime la radio un po' l'amplificatore? Sì, è vero. Vabbè, cosa vuoi di più? Sono con il microfono normale, cosa vuoi pretendere, No, non mi hai capito, ti comprime la radio, Antonè. Cioè, da staccato la radio è più chiara, capito? E quando attacchi un po' ti va a mangiare la radio, deve essere lì, sta entrando con troppi watt quell'amplificatore. Cos'è? Un 737? Cos'è? Un 747? Cos'è? Ah, è uno speed CTE, già lo sai. Ok. Prova a entrare lì con meno watt. Quelli speedy mi sembra che andavano con 3 watt d'ingresso, Antonè. Mettilo proprio in bassa potenza, in FM, e poi attacca. Allora, così a manetta, ci siamo. Così è media e così è bassa. Ok, così è media e così è bassa. Aspetta un attimino l'altro volume. Fammi un passaggio. 1, 2, 3, considera che c'è un microfono normale che fa schifo, perché faceva schifo, già me lo ricordo, quindi non c'è bisogno che me lo ricordi anche tu. Tutto lì. Aspetta un secondo, 2 minuti faccio sentire una cosa. Però lo vedi ti che quando ha abbassato il watt d'ingresso ha migliorato un po' la radio? Appena. Perché mio, quell'amplificatore vuole accordato, lo deve accordare bene, oppure dà troppi watt di quella radio lì, capito? Però se stavo usando il microfono originale non è male. Dirì se li mette un microfono amplificato, già spinge con la radio. Antonè, ma Mike Gain ne hai? No, ne ha questo qui. Adesso vado a posto, sono un microfono amplificato. Un F16. Sono sempre di quelli che operano alla gola. Bogazzino veloce. Non si capisce niente, Antonè, tuglielo. Stai vibrando e basta, non si capisce niente. E infatti l'ho tolto, ecco. C'è la canzone di come si chiama, il Salenta domani, così vediamo come esce là. L'importante è che vari. Ma non c'è più il 140? Sì che ce l'ho. a voglia, messo da una parte. Mettilo, lascialo da una parte, mettilo dentro lo scatolone, così si conserva meglio. Dentro lo scatolone mettilo, non lo usare, mi raccomando. Sì. Se lo stavano comprando, è proprio in uno scatolone davvero, non scherzando. Ma perché non lo usi? Perché secondo te quando ti arrivano le bollette cosa devi fare? O paghi le bollette o ti mangi le bollette? Ascolta un attimino, Antone, ma però, cioè, come usi l'alimentatore col baracchino, lo usi anche col 140, non è che cambia, non è che se tu lo metti dentro lo scatolone e non lo usi è meglio. Lo stai vendendo, però nel momento che lo vendi lo stacchi dall'alimentatore, almeno lo vendi che stava funzionando, no, dentro di cattura, poi vedi tu. Secondo me è meglio così, vai, ti riprendi. Vabbè, ma lui voleva dire che magari stava quasi così venduto e poi invece hanno rimandato, capito? E lui lo stava preparando per venderlo. Cosa c'è tu, Monello? Questo vuole da mangiare, porca miseria. Anche questo, anche oggi mangia questo qua. Anche i miei hanno. Uno è fuori e uno ieri l'ho portati. Li abbiamo portati in pinetta, poi in spiaggia a Platamona, si è fatto il bagno, è fatto un casino di quelli belli, Ma se ce l'ho anche io, a che ora sei andato? Ma te non t'ho visto, ma dove eri? Era al quarto pettine, No, ero allora dove c'è il bario, perché dopo ero prima in pinetta, abbiamo fatto tutta la pinetta e poi di lì sotto dove c'è il bar, dai. Siamo scesi di lì sotto, ma alle 5 e mezzo me ne sono andato. Io lo stesso, sono andato a quell'ora circa, dai. Però era quarto pittine. Vabbè. Ma è meglio che non ci siamo incontrati, perché se no toccava legarli. Se no toccava buttarci a mare nudi. Anche loro ci hanno fatto il bagno, stavano giocando, Mimì e Gogò, padre e figlio. Sì. E poi arrivata a casa doccia, un sapone e niente. Quindi Antone, attacca lo 140, attaccalo, poi quando ti fanno vedere i soldi lo sa che glielo dai, a tutti i dinni. Oh, scusate che vado a dargli a mangiare nel frattempo, dai. Vai Antone. Adesso l'aggancio, avanti, fuggite contento. Insomma, caspita, intanto è inutile che lo tieni fermo, poi quando ti dicono mi sto per prendere la radio, io lo scollego dall'alimentatore, to la radio, ecco qua, la radio venduta, se te la devi vendere, cioè è inutile tenerlo a parte, tenerlo così, tenerlo là, ma intanto non... è inutile. Quanto mi fate soffrire, raga, per carità. Aspetta un secondo. Io sono un giorno che non uso questo ciccio. Allora. Adesso. 100 watt giusti mi tira fuori. Cacca. Indisibili mi mando. Vabbè, c'ho un L7 stazionario, Gavi. Con questa antenna. Bisogna che la scendo giù. Devo buttarla per forza giù. Perché c'ho mancanza di massa. Ecco perché mi dà anche problemi. Ma la fa anche col cable, questa storia qua addirittura. Aspetta che stacco. C'ho problemi anche col coso, col Kenwood, con questa antenna qua. C'ho l'antenna proprio, c'è il palo che ho ossidato, quindi bisogna che lo butto giù, me lo compro nuovo e va a fanculo, è l'unica cosa da fare. aspetta che attacco il cable, 2 minuti. No, ma se c'è un S7 non attaccare, Antone. No, attacco lo stesso, che se ne frega. Aspetta un attimo. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vabbè, non mi senti? Sì. Ora, c'è nessuno che mi ascolta. Ora, sei a fare la pipì? Lo vedi che è diversa la storia con questo? Cazzo, scusa, io ho problemi lo stesso. Ho problemi lo stesso, anzi peggio, la verità. Sì. Ascoltami, tu come mi ascolti? Passaggio? Guarda a vedere, come mi ascolti tu di lì? Guarda un po'. 6:09:30. Io non riesco a capire il perché adesso. No. No. Ma dov'è? Stazionale in antenna, c'ho. Più di 30 watt non mi dà. Ho capito. Infatti ti ho detto che dobbiamo attaccarlo. Ma la radio, la mia, è buona come modulazione, va bene? Sì, già va bene, ha voglia, ci mancherebbe. Aspetta un attimo. No, è proprio un'antenna. È un'antenna che sta girando i coglioni. E quindi in pratica, aspetta, faccio una cosa. Onde evitare di bruciarmi l'apparecchio che non ha giusto su una gara. Ecco, aspetta un attimo. Lo metto così, 5 watt. Oh, meno male ti ascolto bene, meno male. No, ti mi ascolti male. No, meno male, perché c'ho l'antenna in corto. No, ma come radio vai bene. Adesso sì, hai fatto 5 watt e stai arrivando 9:30, cosa vuoi di più? Ho capito su quel fattore, però c'ho problemi di massa. Quindi bisogna che sia questo partito appena finisce un po' questo tempo strano. E salgo su e sistemo l'antenna come si deve. Va bene. Però dico, come radio vai più che bene, capito? Sì, quello sì, vabbè, ascolto anch'io bene, ci mancherebbe. Ti ascoltavo anche bene prima, eh. Usciva benissimo quell'apparecchio, non è che esce male, anzi. Ce ne sarebbero stati come quello. In AM e FM sono una cosa allucinante, meglio del 2009. In FM. Proprio chiara modulazione, come se fosse in AM, cioè senti le persone come se fossero in AM, tale uguale. Eh certo, no, vabbè, va più che bene. Quando c'è l'antenna che va male, è inutile stare a girarci intorno, capito? Io stavo pompando con quei fatti lì, logico che a un certo punto c'avevo 1,8 e qualcosa di stazionale, capito? Adesso sto uscendo con 5 per onde evitare di non bruciarmi il cable. Certo, no, vabbè, abbassa un po' il watt, insomma. Certo che se hai molte stazioni meglio insomma evitare. E infatti è per quello che ho abbassato il watt. Non andava più di 30, figurati tu. Ho capito. Dimmi una cosa, Simona come sta? Simona sta meglio, grazie a Dio, sta ingrassando. Gli ho comprato gli integratori, non i vibratori, gli integratori. E quindi sta facendo l'acqua con quello. La mattina ne ha uno, la sera c'ha la vitamina B12. Per dargli forza e cose del genere, in modo da poter... Però sta mangiando, hai capito? Meno quello c'ha di buono. C'ha appetito e sta mangiando. Ah sì, l'altra volta si è mangiato questo, un piatto intero di... Non gli ho detto niente, la verità. Gli ho messo il riso, ho visto quel riso che c'è lo spigo, le bustine. una intera se l'ha mangiata di quelle, però non gli ho detto niente, ho detto guarda ti ho messo la metà, invece era tutto, tutta una busta intera se l'ha mangiato. Poi si è mangiato, dopo, di dopo che si è mangiato quello ho preso le 4 a fare, l'ha fatto la merenda, ha mangiato i cracker, dopo i cracker poi si è mangiato la frutta, la verdura eccetera eccetera, capito? Già sta mangiando, già c'è appetito, meno quello, è una cosa buona più che altro. È certo di sì, e sta ancora fumando però, vero? No, grazie a Dio no, fumare non fuma perché sennò già lo sa che gliel'ho buttato dalla finestra, l'ho già fatto già una volta, che gli ho messo fuoco al pacchetto delle sigarette e se l'ho buttato dal terrazzo, giù, quindi no, non ne sta più fumando grazie a Dio. A parte non c'è più cattato, quindi respira meglio, hai capito? Quando uno respira con un polmone è totalmente una cosa diversa che respirare con due. Lei c'ha lo stesso polmone che c'ha il Papa in pratica, e che respira con un polmone. Quando cammini a un certo punto, siccome l'altro polmone è atrofizzato, quindi vai a camminare e ti viene l'affanno, capito? Già mi sono informato di queste cose. Ma allora lei non sta fumando perché gliel'ho detto io, hai visto che l'ho spaventata, sono contento che non stia fumando e che sta mangiando, salutamela tanto, Sì, tranquillo, non c'è problema. Già te la saluto. Tanto la mattina ho visto che si alza, si sta alzando, sta facendo da mangiare, sta facendo qualcosa anche in casa per muoversi, se non si muove già lo sai che è un casino. È certo che sì, l'importante è che si riprenda, che se no andando come stava andando non andava bene, capito? Sì, quello è vero, quello già è vero. Allora l'ho spaventata bene, sono contento di averla spaventata, almeno smetti di fumare. Già è vero quello, già è vero. È così. Perché se non si dicono queste cose poi continua a fare quello che non deve fare e poi le fa solo che male. Va bene, comunque dai, va bene così. L'importante è che l'abbia capito, dai. Ho ripreso, Quello già è vero, Avanti, capito. Antone, lo sai che radio sto usando io adesso? No. Io sto usando un Presidente Lincoln. L'ondulazione non è amplificata, lo sai che Lincoln ha quel difetto che bisogna modificarlo, ma comunque sia, va bene, poi vabbè, è una cassata quel Lincoln, c'ha due schede, una sopra e una sotto, la puoi regolare come vuoi tu, c'è la MFM, ti puoi aumentare la potenza e tutto. L'ho avuto il Lincoln. No, non è amplificato perché non lo voglio io amplificato. Perché se voglio, io sto usando un Turner, se voglio lo amplifico, è proprio una mia scelta che non uscire tutto a rutti, scusando la parola. No, lo voglio io così. Niente modifiche, si lascia così. Va bene. Questo è così. Vai ti. Sì, no, ma non c'è bisogno di fare niente a quello. È così. Poi li puoi attaccare quello che vuoi. Anche 600 watt, 800 watt, quello che vuoi può attaccare. Basta che lo fai il pilotaggio lo metti a zero. Andavè. Oh, lo sai che sono uscito fuori, ho visto il piatto con forse un 40-50 crocchette, ne ho aggiunto altre mezzo baratto, ho detto se non ti mangi questo vuol dire che non hai fame. Esatto, no, questi già non ne fanno complimenti, mangiano tutto e... stiamo comprando il pane integrale e a volte avanza e le rodiamo la mattina. Adesso stanno mangiando pane integrale la mattina, pane integrale e ribiasi più di un pane normale, perché quello normale a volte prendevano e ci gioccavano, no, prendevano le vasiane dei macchi, questo qua lo vedi proprio, se lo rosicchiano. No, il mio fa colazione con me, purtroppo è vero, e a volte gli do qualche biscotto anche, però la maggior parte delle volte gli sto dando le fette biscottate. Sì, no, ma anche loro, io non lo nego che a volte qualche, non gli do cioccolato, però magari capita a Natale un pezzo di panettone glielo davo, un pezzo di pandoro glielo davo, me ne fotti nulla. Devono mangiare tutto e poi non, cioè mangio tutto io, non devi mangiare tutto essi, assolutamente. Poi loro il primo migliore è la crosta del formaggio, per loro è un premio assurdo, proprio li vedi che sono, noi prendiamo il formaggio grattugiato, non ne compro io prendo proprio il pezzo e me lo grattugio io a casa e lo faccio un po' mito, perché faccio parmigiano e lo mischio con la peretta, dai, e sì, e mangiano così la crosta grande, un pezzo a uno, un pezzo all'altro, poi spariscono. Lo so, mi piace un bel formaggio. E vabbè, no, io lo stesso, ogni tanto la crosta che avanza della dove vedo che ce la gradiscono, solo che adesso ci sono le crocchette e niente. Ma perché mi si abbassa il carrier, porca miseria, mi dà fastidio. Oh, vabbè, adesso lo metto anche basso io di vatto, avanti, non mi fanno, va bene così. No, io sto usando 10 watt di pilotaggio a metà forza ed è alla grande. Vai Antone. Io devo dormire 2 watt perché hai visto il pane che condizioni è, quindi fino a volte funziona bene, a volte funziona male, dipende, sta oscillando, quando oscilla c'è il vento, mi sono accorto che sta facendo come se gli mancasse la massa, quindi due sono le cose, solo il palo a sostituire, questo è poco, al 100% questo è poco ma sicuro, quindi adesso aspetto il 27, vado alla Bricone, mi compro il palo con l'elettroscopico, mi compro e me lo cambio. Quello d'acqua prendo, lo faccio a pezzi e se la piglia ancora. C'ha più di 20 anni, inutile che stia a rovistarmi così le balle. Prendo il palo telescopico, due graffi a ringhiera e lo aggancio e se la prende ancora. Perché sono stufo di stare a girarmi le palle così. E guarda, più di un tanto non mi dà i watt, è come se andassi in protezione in FM, quindi ui, d'assa verde. Io mi sto bevendo un goccino di bardente, giusto per, vamos. E vabbè, ormai c'è, pian piano bisogna finirla un po' ogni sera. Sì. Io purtroppo non devo stare a se può stare a regime, se può stare a regime fino a ottobre, perché adesso iniziamo il tartassamento, quindi bisogna essere a puntino. Antonello, sono andato stasera, io questo pomeriggio sono passato da Bri come nuovo, e ci sono i tubi in acciaio da 3 metri, mi sa che vengono 40 euro, e da 42 millimetri di spessore, dai, colui gli fai una bella zanca, gli metti l'antenna lì, boh, è finito tutti i pensieri. Oggi non c'è problema, anche perché io sai, ce l'abbiamo 27 anni, quindi accetta qualsiasi tipo di palo, basta che allargo, come si dice, allungo le due gaffe, dopodiché ce l'ho il filo dentro, poi c'è il sacco dentro, come si chiama, l'aggancio alla pipetta della staffa della parabola, la piazza direttamente lì e sono ambientato, l'antenna è leggera, quindi non c'è, lo posso fare anche da solo. Poi gli metto una staffetta di quelle cose a posto, boh, non devo più toccare un cazzo, quando devo svuotare l'antenna faccio altro che staccarla dalla pipetta e appoggiarla là sopra. Ma perché non ti fai un dipolo e ti lasci il dipolo? Ah, lo sai che non sto usando quasi mai il baracchino, già l'hai visto anche tu, io ci ho dato l'affare, capito? A casa, devo stare con Simona, eccetera, eccetera, e farmi dei lavori in nero, non è, è quello che sto facendo, capito? Quindi per il momento non ci sto neanche a pensarlo, poi vedremo, quando non c'è niente da fare, che sono a casa buttato, allora prendo dentro il baracchino, già visto, infatti sto entrando pochissimo all'apparecchio. Sì, però se non vuoi complicarti la vita con la verticale, ti fai un dipolo e ti lasci il dipolo o un dipolo per la 27. E basta, finito, così togli anche la visuale alla gente dell'antenna e basta. Ti fai il dipolo e sopra il dipolo metti un antenino per la, diciamo, per il PRM, boh, e ti è tolto tutti i pensieri, non vede niente nessuno, così nessuno ha niente da dire. Io avrei fatto così. Vai Tino, se ci sei. Sì, e così pensano che è un filo da stendere e basta. No, vabbè, non lo so, io non sono per i dipoli sulla 27 almeno, Poi, non è che non vadano bene, per carità, però a me piace, mi è sempre piaciuta la classica antenna verticale. Sì, ma vabbè, la classica antenna verticale non si discute, però visto che lui ha avuto anche problemi, che gli hanno detto cosa, perché disturbava, perché lui è in alto, è capito, lui ha una posizione invidiabile, lui di lì con un dipolo oppure con un'antenna a filare fatta bene, prende e almeno tappa gli occhi e non ha problemi, se prendi una corda, uno di quei errori, metti uno, come si chiama, mi ce l'ho qua uno, e sapete cosa è, questo TM1000 della ZG, e quando c'hai problemi metti accordatore d'antenna e andi, Antonio. Almeno ormai in città bisogna fare così, perché rompono le scatole. Poi se capita che te ne esce l'antenna e fai casino, so guai, però ognuno fa quello che vuole. Vai, riprendi. No, non è per quello, no, a me non mi tocca nessuno qua, per il baracchino, già lo sai anche tu. Se io metto un dipolo 20 anni fa, quando si usava il dipolo per i 45 metri, il dipolo era lungo 10 metri e 20 per braccio. Tu immaginati, cazzo, a passarlo, farlo a V, eccetera, eccetera. Ho dovuto passarlo davanti alla finestra di uno, sai cosa ha fatto quello? Ha preso l'acqua la forbice e me l'ha tagliato, me l'ha. Perché sono maledetti. Per quello per la 27 è 2,60 per il braccio, sul tetto ci sta perfettamente. Penso che lo fai col capo da 1,5, altrimenti addirittura con quel filo che sta da attrice fine e due puntelli. Per le braccia e non lo vedi neanche tu che lo sai che c'è, figurati se lo vede la gente. E va bene, comunque scelte sono scelte. Io ho un amico che ce l'ha il dipolo sul tetto, credo che dai qualche giorno entra e non si vede, eppure abita in condominio, ha fatto di tutto per mettere questo RG58, addirittura ha messo 20 metri del RG58 pitturato del colore della facciata. Gli entra dentro casa, se tu vai sotto casa sua, io che lo so non riesco a capire dove è puntato il dipolo, non riesco a capirlo. E adesso vediamo, ma dovrebbe uscire bene. Va bene, vai ti, io faccio altri due passaggi e poi chiudo le trasmissioni, che per me domani la sveglia, cari signori, è presto, vai ti. Sì, beh, anch'io. Ti volevo dire, beh, ma che radio ha questo amico? Bah, ha un coso, un 8001, un Midland 8001. Ah, sì, già lo conosco. Vabbè, dai. L'importante è che, insomma, che arrivi qua, sennò se faccio fatica. Ma il produttore dovrei ascoltarlo bene, però, Vai che lo ascolti bene, vai, che c'è il mio zampino. Eia, già l'ascolti. Vedrai che lo ascoltano anche a Sassari. E lo ascoltano anche bene. E c'ha questo 2001 che gli avevano regalato, c'ha questo microfono della Sadelta, come si chiama, l'Ecomaster, così è. Boh, è più afferrato Antonello su questo. L'Ecomaster ce l'hanno quasi tutti, a meno che non sia il CM40 Special, oppure quel microfono mi ha dato tu. Io? E che microfono ti ho dato io? No, tu, Tino. Della... cos'è? Sempre la Sadelta, così è. Via. Aspetta, te lo dico subito. Ecco, Master Plus Classic. Quella Sadelta, il braccio grosso, il piatto è grosso. Ah, sì, ho capito. No, questo qua... Com'era con... non mi ricordo, com'era con... una specie di flessibile sembrava. Esatto, sì, bravo. No, quello là ha il braccio in plastica ed è grosso, capito? Sembra un freno a mano. Ah, capito, grigio di colore. Sì, l'ho conosciuto anche io lui. Però non mi piaceva, non ho mai voluto. Quello del microfono si è adatta molto al baracchino, a Faculo, che non mi viene messo il nome adesso. Era proprio adatto per quel tipo di microfono. culo, mi viene in mente il nome adesso. Ah, quello che sei stato tu, Gavimi. Cosa, Antone? Quel microfono lì è adatto a quel microfono, ma quel microfono, quella parete che si è adatta proprio. In pratica, microfono e apparecchio erano proprio adatti, come marito e moglie. A me sai che microfono mi piace, Antonè? L'M100. L'M100 quale? Della Yais, l'M100. Bello. No, io non l'ho mai provato, né quello. L'unica cosa che avevo provato era l'M160, per carità di Dio. Facevo schifo solo a farmi sentire qua. Infatti immediatamente l'ho dato a Claudio e ho detto te, tieniti quello lì, dammi dietro l'alimentatore. E ce l'ho ancora qui l'alimentatore, buttato a casa. L'ho usato roba di 25 anni quell'alimentatore, mica lo sai. C'è passato il coso, i 80, ma io ti parlo degli anni 80, mi. Lo so, ma questo qua non costa 100 euro, no, questo microfono sto dicendo io, questo costa 450 euro, è proprio dalla linea Yaesu ed è bello, ma poi lo puoi anche, l'equalizzatore è anche il microfono, capi? Lo puoi impostare tramite microfono, puoi alzare e abbassare i toni, però è tutto digitale, beh da riddo SM100, non lo conosco, dopo lo guardo. No, M100. Yaesu M100, dopo lo guardo. Sì, guardalo. Tu guarda la parte della basetta e ti rendi conto cosa c'è. È una cosa paramedica, come si chiama? L'equalizzatore paramedico. Sì, vabbè. E Yaesu, porca miseria, per quanto riguarda processori di coso o di vocali e queste cose qua e tecnologie, menu e 10. Io per lì come mi piacerebbe l'SM20 non sarebbe male, però non ne voglio comprare. Guarda, per lì come sto usando l'MC80 e per il 450 sto usando l'MC60. Qua il coso, il turner, e di là l'MP4, e va bene così. Signori, io devo chiudere perché ho ancora qualcosina da fare, ho i ragazzi da sistemare, mi devo preparare tutto per domani mattina, che l'uscita di casa è alle 5:15. Sono libero domani pomeriggio, però domani mattina la sveglia è presto, quindi Tino e Antonello, ne approfitto adesso del mic e vi saluto, vi auguro buonanotte a voi, al vostro cuore familiare e tante belle cosce per domani. Quindi io domani sera sono in radio, dopo le 18:30, le 19 sono in radio fino a domani, prima di andare a letto domani notte. Quindi se volete entrare, ci facciamo le quattro chiacchiere come stasera. Vi saluto, non riprendo, e di nuovo una buona notte. Vai Tino. Anzi, scusami, è una doppia capsula, si chiama M1, non M100, M1, quello che sto dicendo io. Ed è sempre della Yaesu, guarda l'M1, da riddo, guarda la basetta che ha, basso, tozzo, 594 euro costa, ma appena, dai. E vabbè, considera che sì, noi la usiamo così, però c'è gente che la radio la usa veramente e magari spende quei soldi, Poi considera che c'è gente fortunata che non gli succede mai niente e quindi i soldi riesce a mettersi da parte. A noi ci succede qualcosa tutti i giorni, e quei pochi soldi che riusciamo a metterci da parte dobbiamo spenderli o sulla casa o in qualsiasi altra cosa, più che per la passione. Quindi ci dobbiamo rassegnare, dobbiamo soffrire, ci dobbiamo tenere bene quello che abbiamo. Domani vedrai che riuscirai a comprartelo, fidati, te lo sto dicendo io, e quando te lo dico io vuol dire che la cosa si avvera. Di nuovo, buonanotte, ciao Tino e ciao Antonello, vai, riprendi. Sì, sì, va bene, ci credo. Grazie. Ma lo sai che molte volte a me piace comprare le cose solo perché mi piacciono, non perché per l'uso che potrei farne o meno. No, molte volte, non so se ti è mai capitato, ti compri delle cose che perché ti piacciono vederle, perché ti piacciono averle, tutto quanto. Poi, se riesci a utilizzarle nel meglio delle cose, ancora meglio. Va bene, dai. Anche qua io chiudo l'argomento, perché anche io devo prepararmi ancora due cose per domani e poi andare a lavorare presto, come al solito. Quindi niente, dai, aspetto i saluti e poi vado via. Riprendi, Antonè. Ciao Gavi, ci sentiamo, buon lavoro, mi sa. Comunque ti buon tutto per la notte e poi buon lavoro per domani. Sì, cosa vuoi che dica io? Con quello che devo dare alla Tassa Mondezza, mi è vestirato, come ti posso dire, un bel apparecchio digitale, di quelli che vendono su Facebook, con frequenzimetro e tutto. Devo dare quasi, allora sono 1600 fino al 2007, più altri 600, sono 2000 e passa, quindi sono contento, guarda, sono felice, quindi finché c'è da pagare, c'è da pagare. A posto di comprarmi la parecchio, mi compro la Mondezza, diceva quella. Adesso impiglio un po' di Mondezza, quando la trovo prendo, me la vendo, così me li faccio dei soldi del comune. Lascia perdere, sono la luce, lasciamo perdere queste cose, Antonè, che è un mondo di ladri, come diceva la canzone, non mi ricordo di chi, questo mondo di ladri. Va bene, ciao ciao, buonanotte, tante cose belle, fatti sentire e dai un bacione grande grande a Simona, direi di starmi bene, ok? Ciao ciao Antonè, buonanotte. Ciao ciao, la luce, meno male, mi è arrivata a 3,45 il mese scorso, questa volta mi è arrivata a 90, mi è arrivata, quindi sono a posto, almeno mi sono salvato per la luce. Adesso me la pago, il 27, sono a posto. Dopodiché toccherà c'è la vado a pagare, c'è un malacchino di quelli grandi, gas. Avessi fatto un bel superalotto, me ne sarei uscito da povero, guarda, ti giuro, sarei uscito con la macchina da 6600 euro, mi sarei pagato i debiti, dopodiché mi sarei comprato una bella villa col terreno e sarebbe preso in culo il condominio e tutto il resto, cazzo. Se è andato lì in qualche paese di quelli dove ci sono quelle case a un euro, mi l'avessi sistemata e mi avrebbero anche pagato un solo altro. Sì Antonio, vabbù, ciao continua a sognare, tanto quello è la fine che facciamo un po' tutti. Buonanotte, ciao. E infatti, ciao buonanotte.